dobbiamo anche parlare, lo dice il manuale che non ho letto mai. Fingiamo da ascoltare che ti piace anche sciare, ma non mi importa assai. Sono caduta a libera, sha-la-la-la-la. Fare, ma dormiamo già. E provo ad affascinare parlando anche del mare, ma come attore che pietà. Tento di scappare, ora di ordinare la felicità. Smarrisco un'emozione, la cerco nel palmare, oggi a noi mi ucciderà. Sono caduta a libera.